Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Vi faccio io la regia che è già scritta di questo finale di campionato. Adesso la Juventus magari vince e vince anche l'Inter. Poi fa un due pareggetti giocando male e l'Inter si avvicina ancora, così il campionato riprende interesse. E poi infila ancora una vittoria e così si chiude il campionato e la Juventus porta a casa l'ennesimo scudetto. È una regia già scritta. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Attenzione! Ancora! Ha segnato male? Non lo so, però ha picchiato duro. Ha rotolato forte. La vittoria di Quartararo e la caduta di Marquez. Cioè, secondo te questo è già un episodio decisivo per il campionato? Decisivo no, influente sì. Marquez quando deve recuperare, secondo me, diventa ancora più forte, quindi sarà ancora più forte. E Fabio ha solo dimostrato quello che aveva già dimostrato l'anno scorso di fare. Prova di forza impressionante, impressionante per Lewis Hamilton. Lewis Hamilton vince per l'ottava volta in carriera con 1:16.6. Giro veloce il Gran Premio di Ungheria, grandissima gara. Fantastic effort this weekend, guys. I'm so proud of you all and so happy with today. Thanks so much. Eccoci qui, 17:10 in diretta. Carlo Genta, ciao. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Saluto subito anche Umberto Zappelloni, ciao direttore. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, abbiamo provato a racchiudere con Claudia Schiattone e Valeria Bernardi la strana domenica dei due dominatori dei motori dell'era moderna e contemporanea. Marquez finito nella polvere e a questo punto senza grosse idee su che cosa potranno essere le prossime settimane, frattura dell'omero completa. E verrà operato martedì a Barcellona. Al momento non ci sono previsioni sui tempi di recupero e questa è una stagione particolare che non consente praticamente riposi, soste, e nelle prossime settimane se ne correranno tante di gare. Adesso approfondiremo, poi arriverà anche il nostro Roberto Ungaro. Invece Lewis Hamilton con la Mercedes che ha confermato l'assoluto dominio sulla Formula 1. Ferrari tutte e due doppiate. 800 24 00 24, numero verde se volete intervenire in diretta da qui fino alle 19. 349 238 6666, sms whatsapp. Seguiremo anche Parma Sampdoria che inizia tra una decina di minuti. Allora, da dove vogliamo partire, Carlo? Ma guarda, la notizia del giorno credo che sia quella che arriva da Erez, con un Marquez che ha fatto e disfatto tutto, compreso il suo braccio, perché è andato lungo a fare motocross all'inizio per un errore. Poi ha fatto una delle rimonte più belle degli ultimi anni, certamente, forse di sempre, qualcosa di leggendario, da sedicesimo a terzo, e poi per ancora un errore, per troppa foga, per troppa confidenza. Adesso è un guaio serio per lui. Sappiamo che questi ragazzi sono d'acciaio, quindi non mi stupirei di vederlo in pista, se non la prossima domenica, magari quella dopo. Però certamente con la vittoria di Quartararo, con la Yamaha che va, mi sembra già qualcosa di molto interessante. Cosa che invece non abbiamo, Umberto, dalla Formula 1, dove insomma era tutto abbastanza chiaro già da un paio di settimane. Oggi però è veramente emersa in tutta la sua pienezza la differenza che c'è in questo momento di sport, non di prestazioni, tra la Mercedes e il resto del gruppo. Hamilton aveva toppato la prima gara, ma poi si è ripreso in mano il campionato con una facilità che sembra veramente desolante per il resto del gruppo. Il dominio Mercedes è stato clamoroso, clamoroso perché li ha doppiati quasi tutti, non soltanto le Ferrari, sono state doppiate tutte a parte l'altra Mercedes, quella rosa, e Verstappen, che ha fatto i numeri anche lui, un po' come Marquez, senza fortunatamente farsi male dal suo punto di vista. Il mondiale è ovviamente segnato, la superiorità Mercedes ci fa fare delle domande, perché sono le domande che si faceva a Binotto ieri pomeriggio. Agli altri non resta che l'arte del sospetto, no? Però esattamente, perché c'è il vantaggio che hai visto in pista. Hamilton ha potuto rientrare a 4 giri dalla fine per cambiare le gomme e fare anche il giro più veloce e ridoppiare Vettel un'altra volta. Insomma, è qualcosa che non si vedeva veramente dai tempi di Schumacher e di quella Ferrari. Il guadagno che è stato fatto, nonostante il cambio regolamentare sui motori dall'anno scorso a quest'anno, lascia qualche sospetto, gli stessi che l'anno scorso c'erano sulla Ferrari, però insomma confidiamo che ci siano i controlli adeguati come ci sono stati l'anno scorso. Sì, e come abbiamo letto non ci sono stati, no Carlo, in questa stagione, no, però, ma a proposito delle Mercedes-Benz. Credo che l'unica variabile possa essere questa, ma registriamo già e mandiamo agli atti la risposta piccatissima di Toto Wolff, con chiaro riferimento alla Ferrari, a sgombrare il campo da ogni equivoco. Ora vediamo, ci auguriamo tutti in coro con il direttore Zappelloni che i controlli siano appropriati. La Ferrari davvero non va, è un disastro. Sì, che i controlli siano una cosa seria. Ci ha fatto divertire Verstappen, che ne ha fatti di tutti i colori, è andato a muro nel giro di formazione. I suoi gli hanno rimesso in piedi una macchina evidentemente competitiva, è partito fortissimo ed era settimo ed è alla fine arrivato secondo. Non ha mai impensierito Hamilton, anche se poi agli annali resterà che è arrivato a 8 secondi e 7 decimi da Lewis Hamilton, ma lo ha spiegato Umberto Zappelloni: Hamilton si è fermato, ha bevuto un caffè, ha fatto l'ultimo pit stop giusto per tornare dentro e prendersi il punticino aggiuntivo del giro più veloce, e quindi diciamo Verstappen è arrivato lontanissimo. Adesso apriamo il capitolo Ferrari, prima però c'è il traffico. 800 24 00 24 in campo Altardini, Parma e Sampdoria, che è la prima delle gare di queste domeniche. In questa domenica ce ne sono due particolari: alle 19.30 Genoa-Lecce, che di fatto è lo spareggio per non retrocedere, e poi ne parleremo alle 21.45 Roma-Inter, che è il primo dei due atti della sfida a distanza scudetto, se esiste una sfida a distanza scudetto tra Inter e Juventus. E poi vi faremo sentire anche le parole di Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, che ha perso altri pezzi della sua Lazio. Traffico, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Parliamo della Ferrari allora. 800 24 00 24, sesto Sebastian Vettel, che è stato beffato nel finale da Albon su Red Bull dopo aver ingaggiato una lunga lotta per arrivare al quinto posto. Undicesimo Charles Leclerc, sconsolato in alcuni team radio, ha detto: direttore, non riesco a tenere dentro la macchina, sto facendo fatica, è una lotta. È forse la fotografia di quello che è in questo momento il momento della Ferrari. Vettel va quasi considerata una prestazione più che confortante, no? Sì, su Leclerc si è stato fatto anche qualche errore probabilmente nella scelta delle gomme, qualche pasticcio sulla scelta delle gomme, perché a Leclerc è stata fatta una scelta diversa quando è stato richiamato ai box per la prima volta, e lo abbiamo visto poi perdere completamente il feeling con la macchina e naufragare o fuori dalla zona punti, che insomma per una Ferrari è qualcosa di clamoroso. Lui ha provato a resistere bene con Bottas, ma poi ha dovuto lasciare passare nell'ordine praticamente Bottas, Norris e poi alla fine anche Sainz. Insomma, un Leclerc veramente scoraggiato e probabilmente depresso da quello che sta andando un po' in crisi, lo chiedo a tutti e due, questa è una stagione iniziata di fatto con l'investitura, prima guida Ferrari, con tutto quello che sappiamo. Lui ha fatto solo una cosa secondo me oggi intelligente, al via, perché al via gli si era aperto ancora un varco, però ha visto davanti a lui Vettel e lì ci ha pensato su per non finire come domenica scorsa in Austria. Ha dimostrato di aver ragionato al via per non ripetere l'errore della scorsa settimana. Però sicuramente restare dietro a Vettel in qualifica, vedere Vettel che anche sul bagnato venerdì aveva fatto vedere qualcosa di, di finalmente di interessante per quella Ferrari, insomma, forse lo sta un po' impensierendo. È sicuramente in un momento non semplice della sua crescita. Carlo, ti cito queste parole di Vettel, chiaro prima della gara che ci avrebbero doppiati. Tutte e due le Ferrari doppiate non accadeva dal 2008. E beh, Giovanni, mi sembra veramente una sentenza di condanna capitale questa di Vettel. D'altra parte Leclerc, io temo che, cioè, vorrei chiedere anche a voi se invece quell'eccesso di pensiero, quella partenza in cui vede il varco però si fa sfilare via, eccetera, se questo per un pilota istintivo in crescita come Leclerc non possa essere forse un limite, cioè non deve, è uno che non deve pensare troppo, deve andare dentro. Ha commesso un errore domenica scorsa, oggi chiaramente la macchina era un bidone, ma non vorrei che così quel minimo di depressione derivasse anche da questo eccesso di zelo forse. Direttore? Diciamo che se dovesse ripetere un eccesso di zelo come quello di oggi anche nelle prossime occasioni, sarei d'accordissimo con te. La prima volta, subito dopo il crash, dopo che si era preso le sue colpe, forse è stato normale fare così. Poi a Leclerc a noi piace perché è quello che prova sempre, che ci prova sempre anche quando non dovrebbe provarci, insomma, è quello che va a rischiare più di tutti. È il pilota che ci piace perché prende quei rischi, perché prova a fare cose al di là del valore della sua macchina. Quindi vederlo sempre correre col freno tirato non ci piacerebbe. La prima volta subito dopo il crash la capisco, umanamente la capisco, per evitare di trovarsi cannoni puntati contro un'altra volta. Sì, la chiave di tutto è che però in qualche modo la Ferrari dia a Leclerc e a Vettel una vettura che sia almeno minimamente competitiva, perché quella di oggi non lo è. Questo in un mondiale di Formula 1 che registra per Hamilton l'8ª vittoria in Ungheria e dunque ha raggiunto il record di Schumacher di vittorie sullo stesso circuito, mentre a proposito di record, con questo successo che è il numero 86 della carriera, Lewis Hamilton arriva a meno 5 dalle 91 vittorie di Michael Schumacher. Di questo passo credo che celebreremo tutto prima della fine di agosto. Calendario alla mano, all'inizio di settembre, o peggio ancora se dovesse accadere la settimana dopo al Mugello esatto, nella domenica delle 1000 gare in Formula 1 della Ferrari, quindi in ogni caso con un significato simbolico di forte portata. 0-0 Parma-Sampdoria, siamo al sesto minuto del primo tempo, andiamo al Res della Frontera, saluto Roberto Ungaro, ciao Roby. Ciao Giovanni, ciao Carlo. Vi faccio sentire ciao Dovizioso, Roberto, che ha portato la sua Ducati sul podio, terzo posto, ma era tutt'altro che sorridente. Davvero è arrivato solo col lavoro del team e con la mia determinazione, però non siamo veloci, quindi non basta. Allora, questa è la delusione di Dovizioso, è arrivato terzo dietro a Quartararo e Vignales. Io però credo si debba partire naturalmente da Marc Marquez, lo ricordo, per lui frattura dell'omero del braccio destro, c'è anche il possibile interessamento del nervo radiale dello stesso braccio, verrà operato a Barcellona, la previsione è che sia operato martedì e in questo momento non c'è nessuna certezza sui tempi di recupero. Che cosa ha combinato Roby? Ha fatto come lui è solito fare, ha esagerato la prima volta andando in ghiaia a una velocità pazzesca, stando in piedi e sfidando le leggi della fisica. Chiunque va in moto e ha visto quello che ha fatto dice è impossibile. È stato in piedi, è entrato velocissimo in ghiaia, non è caduto perché ha tenuto aperto e quindi non è affogato, è tornato in gara sedicesimo, quindi quasi per ultimo, e ha iniziato a risalire. Non si è accontentato, perché lui non si accontenta, quando era dietro a Maverick che era secondo e davanti c'era Quartararo un po' distante, molto lontano, erano 5-6 secondi però, a 4 giri dalla fine. Ok, è stato troppo stretto, è andato sulla vernice e la moto gli è partito al posteriore. Non è stato molto lucido, al di là poi della sfortuna di farsi male. Sai cos'è Giovanni? Che lui è così, cioè non poteva. Allora ti dico, secondo me, questa è la mia opinione, Quartararo era lontano, ma Maverick era assolutamente alla sua portata, era lì da sotto, mancavano 5 giri, quindi faceva bene a crederci, avrebbe finito secondo. E quelli che dicono poteva accontentarsi e finire terzo perché è ripartito sedicesimo, quindi ha già fatto un'ottima rimonta, non lo conoscono, cioè lui ci piace fare la differenza. Sai cosa, Roby? Lui aveva in mente Quartararo, nonostante fosse lontano, stava girando fortissimo. Sì, e Io sono convinto che lui avesse in testa il grande slam, cioè la rimonta totale. Sì, però ricordo, stava a 5 secondi a 4 giri dalla fine. Ma stava girando forte, eh. Stava girando forte, cioè non era impossibile. No, però alle volte il confine tra leggenda e follia è veramente sottile. Dice Roby, era impossibile, dice il cronometro che aveva messo insieme, aveva recuperato un secondo e mezzo nei quattro giri precedenti. Sì, però Mark, sai che ha sempre nel cilindro quello che non, pensiamo non possa esserci, invece lui lo tira fuori. Quindi avrebbe finito secondo, secondo me, perché non era veramente lontano, anche se mai dire mai, ma ci devi provare, e quello è Mark, capite? Direttore, allora, nelle prossime 5 settimane c'è l'Andalusia tra 7 giorni, la Repubblica Ceca 21 giorni dopo, poi di seguito Repubblica Ceca, Austria, Estiria. Hai l'impressione, Umberto, che la stagione della MotoGP abbia preso oggi una piega sorprendente? Sorprendente sì, perché si pensava a un dominio di Marquez come quello di Hamilton in Formula 1. Il suo infortunio sicuramente apre i giochi, Quartararo ha rotto, o Quartararo come lo si vuol chiamare, ha finalmente rotto il ghiaccio, ha vinto la sua prima gara e diventa un candidato importante. Purtroppo non vedo la Ducati, era credo vizioso, che come sempre ha ottenuto dalla moto più di quanto quella moto valga, però manca la velocità per impensierire, poteva essere purtroppo l'anno giusto, perché dopo che arrivi secondo per 4 anni di fila dietro a Marquez, nell'anno in cui magari Marquez ha dei problemi, tu non essere lì ti fa anche girare le scatole, credo. Forse il suo umore è anche dovuto a quello, però abbiamo visto una Yamaha, a parte quella di Valentino, purtroppo competitiva. Sì, ha dato, no, Carlo, anche una bella frecciatina, secondo me, Dovizioso. Sì. È nel mezzo di una trattativa per il futuro, quando dice tutto quello che abbiamo ottenuto l'abbiamo ottenuto grazie a me e ai ragazzi del box, no? Sì, forse non gentilissimo. Giovanni. Io l'ho sentita così, l'ho letta così, magari sbaglio. No, anch'io la leggo così. La Ducati non è andata nel complesso poi malissimo, comprese le due Pramac, erano tutti lì con i primi. Non dimentichiamo che questa, ma Roberto potrà confermare, è una pista che non piace alla Ducati, ma piace ancora meno a Dovizioso, quindi insomma non la leggo così preoccupante la prima di stagione. Roby? Il caldo così eccessivo gli ha un po' aiutato il gap che c'è Ducati in negativo, che c'è di Ducati su questa pista. A me quello che ha impressionato era lo sguardo che aveva Dovizioso finita la gara, era molto affaticato dal calo, però era proprio ho letto della tensione tra lui e la squadra, cioè questa cosa del contratto non gli va giù, lui vuole risolverla, piuttosto accettare di interrompere la sua carriera. Lui sa che ha ancora pochi 1-2 anni da giocare, perché poi è al tramonto purtroppo come età, e quindi deve portare a casa un contratto come dice lui, ma Ducati non ci sta. Questa cosa qua comunque si sta sfilacciando, te lo vedi, non erano volti tutti, e secondo me è stato un grande risultato per la gara che ha fatto finire a podio, non l'avrei mai detto viste le fasi della gara, perché erano molto più competitivi di Pramac. Bagnai all'inizio mi è piaciuto, poi si è perso via. Deve esserci un Bagnaia, perché altrimenti non ci si crede più in quel pilota. Miller è il solito cinghialone, perché fa delle puttade, però non è mai costante, non è mai, cioè ti aspetti il risultatore magari, però poi è. Quindi insomma, quindi poi resta Valentino, che Valentino, di fatto non c'è mai stato oggi. C'è stata una polemica tra il responsabile Michelin e lui, avete sentito sabato, questa cosa che è il suo stile di guida, che mette in crisi questa nuova gommona posteriore che ha un appoggio maggiore, lui si sporge tanto per cercare questo stile e quindi la deteriora più degli altri, e c'è stata questa polemica. Valentino ha uno stile di guida che è old style rispetto ai nuovi, non che sia meno efficace, però ha questa caratteristica e si vede che non riesce, perché comunque le Yamaha sono competitive. Tutte le altre ce lo hanno mostrato. Fa un po' tristezza vederlo lì nella pancia del gruppo. Grazie Roby. Sì. A voi. Un saluto. Ciao, a ciao Roby. Saluto anche Umberto Zappelloni. Ciao direttore, grazie. Alla prossima. Carlo, ciao, invece tu resti lì. 13° minuto. Altardini 0-0 tra Parma e Sampdoria. Ricordiamo che il programma oggi prevede alle 19:30 Napoli-Udinese, Genoa-Lecce, che come detto è un autentico spareggio per non retrocedere. Poi ci saranno anche Fiorentina-Torino e Brescia-Spal alle 21:45. Roma-Inter, domani Juventus-Lazio. Vi anticipo che cosa ha detto Sarri, Carlo, in conferenza stampa. ha detto voglio andare avanti con la Juventus, non è la stessa situazione del Chelsea, a me piaceva la Premier ma il desiderio di tornare in Italia è sempre stato dentro di me, io voglio andare avanti con la Juventus. E questo è tema di dibattito oggi nel mezzo di una crisetta Juventus alla vigilia della partita che in caso di sconfitta può davvero riaprire la corsa allo scudetto. 8-0-0 24 0-0 24, ci fermiamo, torniamo e poi apriamo su Roma-Inter di questa sera. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti con voi. Convocati. L'Inter si trova a quel posto lì grazie alle disgrazie delle altre squadre tipo Lazio e Atalanta, non è per merito di Conte. Poi un'altra cosa, la rosa che c'ha l'Inter, cioè deve essere dietro la Juve senza sì, senza ma non aspettare che perde la Lazio, pareggia l'Atalanta per andare lì al secondo posto o al terzo posto. L'Inter deve essere l'antagonista della Juve già dalla prima giornata, poi anche lo stipendio sopravvalutato, dai, lasciamo stare, va. You get what's given, yeah! Abbiamo avuto l'infortunio di Alexis Sanchez, praticamente ci ha privato per 4-5 mesi e anche in mezzo al campo purtroppo è stata un'annata un po' tormentata, no? Per via di alcuni infortuni ripetuti, però al tempo stesso vediamo anche il bicchiere mezzo pieno, chi ha giocato, chi sta portando la carretta sta dando delle risposte importanti. Stiamo parlando di una squadra attrezzata, di una rosa sicuramente con un ottimo organico, un bravo allenatore, una partita di alto indice di difficoltà per noi, però da parte nostra di positivo c'è sicuramente adesso l'entusiasmo, no? L'entusiasmo che iniziamo a vedere riconosciuto un pochettino il lavoro che è stato fatto e quindi i ragazzi iniziano ad essere apprezzati perché nell'ultimo periodo, ecco, sinceramente in maniera anche un po' a sorpresa, penso che la squadra sia stata un po' bistrattata troppo. Allora, questo Antonio Conte ieri intanto si è portato in vantaggio il Parma contro la Sampdoria al Tardini, 18esimo minuto, un gran bel gol di Gervinho che è andato via sulla sinistra, è entrato in area di rigore, è rientrato, si è portato il pallone sul destro, ha tenuto a distanza un paio di difensori della Sampdoria e poi ha scaricato il pallone sotto la traversa, imprendibile per Audero, quindi 1-0 del Parma sulla Sampdoria, Sampdoria che in questo momento resta ferma a 38 punti. Ma è ancora a distanza di sicurezza rispetto alla zona caldissima della classifica, dove ricordiamo alle 19.30 Genoa e Lecce si incontrano, il Genoa è quart'ultimo con 30 punti, il Lecce terz'ultimo e dunque in questo momento virtualmente retrocesso, un punto più sotto a quota 29. Saluto Massimo Paganin, ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio, ciao. Allora, io non so che idea vi siete fatti voi, ascoltando ieri Antonio Conte, a me pare che si sia messo in modalità rumore dei nemici, anche se poi nelle ultime due settimane a bistrattare l'Inter, usando il termine che ha utilizzato Antonio Conte, è stato molto anche lui, ad esempio quando ha parlato di pacchetto preconfezionato, non lo so. Massimo. Ma sicuramente, diciamo così, se prendiamo solo le ultime giornate, lasciamo stare tutto quello che è accaduto nel pre-Covid, probabilmente l'Inter qualche punto in più potrebbe averlo, questo è quanto, è il dato di fatto, credo che lui dalla sua squadra si aspettasse qualche cosa di più, così come lui da se stesso pretenda moltissimo. Quei punti persi con Bologna e Verona sono dei punti persi adesso in una partita o nell'altra, perché abbiamo visto quanto il Verona comunque sia in grado di mettere in difficoltà anche le grandi, e quanto comunque il Bologna adesso abbia mollato, se vogliamo, dal punto di vista mentale, una volta raggiunta una posizione importante, lo si è visto nella partita con il Milan, però credo lui si aspettasse un po' di più dalla sua squadra e credo che adesso in questo momento il dispiacere e la rabbia sia un po' di più considerando la distanza dalla Juventus, perché è chiaro che bastava un po' più di accortezza per essere più vicini, però è vero anche che se andiamo a guardare i numeri, l'Inter prima come squadra con minor gol subiti, è al secondo posto come gol fatti, e quindi da questo punto di vista ha, rispetto allo scorso anno, molti punti in più, ha superato quota 70 punti. Sì, ci sono tanti paradossi nel bilancio numerico dell'Inter. Chiaro, come si suol dire, come si guarda, la prospettiva deve essere quella giusta, perché altrimenti si rischia solamente di valutare le cose che non vanno bene e di non guardare quelle che invece sono andate bene e sono state fatte bene dall'inizio della stagione ad oggi. Ma non ha detto cose sbagliate comunque Conte nell'intervista che abbiamo sentito. È chiaro che possono suonare come alibi, però effettivamente ha avuto un centrocampo ridotto ai minimi termini in questo periodo. È sacrosanto il fatto che, secondo me, con Sassuolo e Bologna l'Inter abbia buttato via i punti che volevano dire la perfezione che serviva per provare ad andare a prendere la Juventus. Dovevi essere perfetto, non sei stato perfetto. Adesso seconda, 7 punti di distacco, credo che sia, insomma, il prezzo sia giusto. Sì, la distanza tra le due squadre sia quella. La cosa che a me fa un po' riflettere è il fatto che lui abbia portato al di fuori le critiche. Ha detto questa squadra è stata bistrattata. Quando, ripeto, insomma, se mettiamo insieme le dichiarazioni delle ultime due settimane di Antonio Conte, lui per primo ha sollevato più di un dubbio su questo progetto, o almeno su questa fase di comportamento dell'Inter in campo e anche di possibilità di avvicinarsi alla vittoria. Intanto il raddoppio del Parma 2-0 al 24esimo, tra qualche istante vi racconto, perché è stato un gol abbastanza rocambolesco quello che ha portato il Parma sul 2-0. Intanto questa sera Massimo ancora senza Eriksen, che va in panchina. Credo ci sia che non sia un caso, trasferta impegnativa all'Olimpico contro la Roma, che è comunque una squadra di livello, e Conte ritorna al 3-5-2. Il 3-5-2 non prevede Eriksen. No, non prevede Eriksen. È vero che sta ricercando, a mio modo di vedere, l'equilibrio, perché da quando il campionato è ripartito, tra la nuova partenza del campionato, l'Inter sta cercando molto il gol in avanti, ma è vero, non solo l'Inter credo, perché ho visto anche Lazio, Juventus, lo stesso Milan, le squadre tendono a prendere tantissimi gol, si preoccupano più di vincere le partite piuttosto che difendere il risultato, tanto è vero che di 0-0 ce ne sono stati veramente pochi, e quindi credo che indipendentemente da tutto anche le grandi stiano puntando di più ad un calcio, se vogliamo, che a mio modo di vedere è più europeo, no? Quello dello spettacolo, quello della voglia di fare un gol più degli altri, e la stessa Atalanta, avendo segnato anche 94 gol, ma ne ha subiti tanti, più di 40, perciò al di là di tutto, diciamo, prevale l'idea di avere un calcio offensivo. L'idea di fare un calcio europeo, o non so, chiedo a tutti e due, o è il fatto che su un calcio in cui magari l'aspetto atletico conta meno, perché tutti corrono un po' meno, si gioca ogni 3 giorni, se hai delle qualità provi a gettarle in campo? Secondo me è abbastanza la seconda che hai detto, Massimo. Vediamo delle partite diverse, perché sono sotto ritmo, se vuoi, dal punto di vista fisico, e probabilmente non potrebbe essere altrimenti. Si vede un calcio molto più tecnico, no? Sì, sicuramente sì, le squadre stanno cercando di correre, ma è chiaro che questa è una situazione anomala, l'avevo detto prima che iniziasse io, ed è vero, d'altra parte nessuno si era mai trovato di fronte a dover disputare un campionato compresso, praticamente 12 partite compresse in un mese e mezzo, dal punto di vista fisico, soprattutto in questa stagione, dove c'è l'impossibilità proprio dal punto di vista fisico di recuperare appieno le energie, e abbiamo visto tra l'altro quanti infortuni ci sono, quindi gli allenatori stanno facendo i salti mortali per fare in modo di far riposare tutti i giocatori, di far ruotare la rosa. Deve essere comprensibile anche questo, indipendentemente da tutto sono degli esseri umani e quindi come tali ci sono dei limiti, però stanno facendo tutto quello che potevano fare. A mio modo di vedere sono anche più spettacolari le partite, perché non si sa mai cosa aspettarsi poi all'interno di una gara, perché abbiamo visto che dopo il 70esimo, 65esimo inizia un'altra partita. C'è una partita nella partita. Sì, quella nella quale cominciano tanti errori, un po' di mancanza di lucidità, delle difficoltà di riuscire a rimanere in campo. Abbiamo visto tanti risultati ribaltati proprio negli ultimi minuti per questo motivo. È anche uno dei punti di critica a Conte, di aver usato male le sostituzioni in questo mese. Certo, però come giustamente è stato sottolineato, credo che al di là di tutto lui abbia fatto le sue considerazioni, forse poteva intervenire in alcune partite, poteva intervenire in maniera diversa, però siamo sempre lì, purtroppo si parla sempre a risultato acquisito, no? E quindi senza la possibilità di avere la controprova. Lo sport è il bello e il brutto dello sport è proprio questo, la possibilità di poter dire quello che si vuole a fine della partita, però non c'è la possibilità di poter cambiare quello che è accaduto. Certo che, ripeto, Conte, credo che la rabbia sua più grande sia quella proprio di aver visto che quei 5 punti tra Sassuolo, Bologna e Verona avrebbero fatto una grandissima differenza. Purtroppo sì, non si può tornare indietro, ma è vero anche, come detto, tutte le situazioni vanno analizzate con lucidità, perché non si può buttare via tutto e bisogna cercare di ripartire da un punto di positività e di propositività. L'Inter ha fatto bene, sta facendo bene. Poi manca l'Europa League, che non è un dettaglio, ecco, però ci si arriva, esatto, arrivarci da quarto o arrivarci da secondo può fare non una è la stessa differenza. Cosa non è, anche quindi, perché se ci arrivi da quarto nel clima dell'ambiente post Bologna, per intenderci, ma quello interno, non quello esterno, è chiaro che ci arrivi con l'idea di un fallimento. Se riesci nelle ultime 6-7 giornate a invertire il trend, ci arrivi in maniera differente. Intanto vi devo raccontare che il gol del Parma del 2-0 di cui vi ho parlato prima è stato annullato per fuorigioco di Caprari, fuorigioco pescato dal VAR Manganiello, ma fuorigioco abbastanza netto. Riviste le immagini, dunque si resta sull'1-0 per il Parma sulla Sampdoria. Di fatto non si è più giocato, perché il gioco è stato fermo 2 o 3 minuti per la revisione VAR, e a quel punto Calvarese, che è il direttore di gara, ha mandato tutti al cooling break. Adesso siamo al 29esimo, partita che è appena ricominciata, ma immagino avrà una coda molto lunga di recupero alla fine del primo tempo. E dunque 1-0 ancora per il Parma sulla Sampdoria, decide fin qui il gol di Gervinho al 18esimo. Io saluto Massimo Pagani, ciao Massimo. Ciao, grazie a voi, ciao, buon lavoro. Ciao, grazie, ciao, alla prossima. E adesso andiamo anche a mettere il naso, Carlo, in casa Roma, ma vi voglio ricordare le parole che poi sentiremo dopo il GR delle 18 di Maurizio Sarri, vigilia di Juventus-Lazio. Ha detto Sarri: voglio andare avanti con la Juventus. Al Chelsea la situazione era diversa, mi piaceva la Premier League, ma il desiderio di tornare in Italia è sempre stato dentro di me. Invece con la Juventus ho un contratto e voglio andare avanti. E mi piace sapere anche cosa ne pensano, perché questa è stata la settimana del processo a Sarri, tifosi della Juventus. 800 24 00 24, prenotatevi, dopo le 18 daremo spazio alle vostre telefonate. Adesso il traffico e poi torniamo subito. Sono interista, ma i discorsi sulla remontata si esauriscono in una considerazione. L'ultima partita siamo a Bergamo, è impossibile vincere per noi. Ci rifaremo quest'altro anno, magari se Conte si sveglia un po' prima. E assolutamente l'Europa League, assolutamente. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Non c'è nessun problema, la squadra sta con fiducia, tutti insieme, non c'è nessun problema qui. Magari il problema è più nell'esterno, perché qui siamo tutti insieme, come ho detto, tutti sereni. Questo Fonseca ieri alla vigilia di Roma-Inter di questa sera. Intanto 32esimo minuto, ma ci sarà un lungo recupero nel corso del primo tempo. Altardini 1-0 del Parma sulla Sampdoria, gol fin qui di Gervinho al 18esimo annullato. Vi ricordo un gol a Caprari al 24esimo per fuorigioco con intervento del VAR Manganiello. A proposito, 18:35, con Luca Marelli facciamo il punto con VAR Anatomy. Saluto Giancarlo Dotto, ciao Giancarlo. Ciao, ciao a tutti voi, ciao. Allora, ha ragione Fonseca a dire che i problemi della Roma vengono da fuori, hanno ragione tutti gli altri a dire che c'è anche un discreto problema tecnico, Giancarlo? Beh, andrebbe interpretato questo fuori, cosa intende per fuori? Intende il mondo dei media oppure intende fuori in quanto Londra, in quanto Boston? Secondo te? No, lui chiaramente cerca secondo prassi consumata di attribuire il problema a una certa densità cronistica, diciamo, chiamiamola così, dei media, colpa dei giornalisti. È la scorciatoia più facile per quello che è l'andamento abbastanza lobotomizzato dei tracciati domanda-risposta, no? Per cui dici crea il problema, no, il problema lo crea il giornalista. In realtà il problema c'è ed è proprio fuori, come dice Fonseca, ma non è il fuori che intende lui, è il fuori che intendiamo noi, li sappiamo tutti, cioè di una società totalmente assente, totalmente sconnessa da quelli che sono i problemi reali di questa squadra e che tiene in ostaggio a Roma per brame che possono essere a questo punto sia legate all'orgoglio personale del presidente sia brame di natura, per carità, legittima, ma però che sono di natura economica. Sta di fatto che la Roma è ostaggio di questo, e anche Fonseca, poverino, a me fa molta tenerezza sentirlo quando dice con quella sua vocina molto garbata dice siamo all'inizio di un progetto, bisognerebbe purtroppo che qualcuno gli faccia sapere che questa frase è una frase molto consumata a Trigoria, che i tifosi romanisti sono abbastanza stanchi. A Roma e a Trigoria sono sempre ore decisive e si è sempre all'inizio di un progetto, bisognerebbe stare attenti. Giancarlo, sarebbe stato abbastanza sorprendente se il cammino della Roma, vista la situazione e anche lì riferimento all'esterno, che è certamente non il mondo dei media ma quello della proprietà, sarebbe stato sorprendente un cammino diverso da questo della Roma. Anzi, trovo addirittura sorprendente che dopo Napoli, dove già si erano visti segnali di risveglio, si sia un po' ripresa la Roma, perché ti dico che quasi quasi non me l'aspettavo. Perché è impensabile che il casino relativo alla proprietà, al mancato passaggio di proprietà, l'incertezza sul futuro, è impensabile che non si rifletta sul campo. Fonseca poverino sta facendo il suo con grande dignità, sta cercando di barcamenarsi. Poi sai, quando parliamo di ripresa bisogna anche andare a leggere le cose, perché insomma stasera si vede veramente se c'è questa ripresa, perché per il momento sono state 3 vittorie, ma tutte e 3 insomma da leggere, da interpretare. Non dimentichiamo che la Roma probabilmente non riesce a vincere neanche con il Verona se non viene negato quel rigore clamoroso che sappiamo. Le altre 2 vittorie sono con 2 squadre fantasma, quindi insomma stare cauto sul concetto di... Intanto la Roma rischia, perché ha un punto di vantaggio sul Milan, questa sera gioca contro l'Inter e non è semplice. E poi c'è le ultime 4 giornate con 3 trasferte: Spal, Torino, Juventus, la Fiorentina all'Olimpico. Il quinto posto non è decorativo, perché comunque segna la differenza tra chi va a fare i preliminari e saranno 3 e chi invece entra in Europa League dalla porta principale dei gironi. Ora è chiaro che l'obiettivo della Roma era un altro, per mille motivi, compreso quello societario, dei bilanci, ed era la Champions League. Però arrivati qui, anche immaginare di scivolare dietro una squadra che prima della ripresa pagava diversi punti rispetto a te, ha un significato tutt'altro che simbolico, no Giancarlo? Assolutamente, parliamoci chiaro, un 7° posto sarebbe un disastro, sarebbe quasi preferibile a quel punto uscire completamente dai giochi, delle qualificazioni per Europa e piuttosto che andare incontro a una situazione obiettivamente complicata come quella di turni complicati, di un giorno infernale, eccetera. Quindi il quinto posto è sicuramente, però è un traguardo tutt'altro che acquisito, e hai fatto bene a segnalare un calendario che non è molto più semplice quello del Milan, per quello che può contare. Poi soprattutto non sono convinto, non sono per niente, io non ho visto quei segnali di ripresa stasera, mentre sono abbastanza convinto che ci sono dei segnali di ripresa nell'Inter, nel senso che di fronte a una situazione ormai di quasi morte certificata, l'essere sopravvissuti, addirittura ancora aspirare in qualche angolo del proprio cuoricino a una possibile lizza per lo scudetto, secondo me l'Inter potrebbe, avendo ritrovato anche diversi giocatori, potrebbe ripartire. Insomma, non è per niente una partita facile stasera, però la Roma è un ex grande, e quindi qualche rigurgito di orgoglio bisogna immaginare che possa avere. Sì, resta sempre comunque una grande partita. Intanto questa, Giancarlo, 37esimo 1-0 Parma-Sampdoria, è stata anche la settimana del caso Zaniolo. Non c'è nessun problema con Zaniolo, con me o con i colleghi. Io ho parlato dopo con Zaniolo, sta tutto bene. Zaniolo è un giocatore importante nella squadra, è stato infortunato molto, molto tempo, e noi abbiamo piena fiducia in Zaniolo. Zaniolo che non c'è per un affaticamento muscolare, ma mi togliete questo dubbio, parto da Carlo. Cioè, non si poteva gestire diversamente anche il fatto che un giocatore non sia brillante negli ultimi 20 minuti di una partita, invece di renderlo un caso con i compagni che lo rimproverano, l'allenatore che lo rimprova davanti a tutti? Non lo so, mi è sembrato tutto molto eccessivo. Credo che faccia parte del pacco di qui sopra, cioè di un clima, di un ambiente interno, esterno. Vedilo come vuoi, che in questo momento alla Roma è difficilissimo. Poi detto questo, Zaniolo, che non è nuovo ad alcune zaniolate, lo sappiamo bene, è un giocatore di grande personalità, e questo ovviamente è il suo lato forte. Dall'altro lato, qualche volta gli scappa la frizione, ed è normale che in un ambiente con i nervi piuttosto tesi, insomma, bisogna stare attenti anche ai comportamenti, perché un attimo saltarti la mosca al naso, credo. Giancarlo, dotto? Beh, io l'ho scritto la sera stessa e mi confermo, naturalmente è stato molto sorprendente. Lo era, lo sarebbe stato in assoluto, ma lo è ancora di più se pensiamo a quello che è l'uomo Fonseca, cioè un uomo molto misurato, temperato, che tende a stendere il manto soffice della sua parola, della sua voce su tutto, no? Di coprire tutto come una brava zia. In quel caso, perché tirar fuori il problema? Ora, perché suscitare il sospetto? Io non credo che ci sia dietro la classica strategia del discredito nei confronti di un giocatore che deve essere venduto, perché questo, però perché fare in modo che si scateni questo sospetto? Perché creare questa, cioè, il sospetto dei tifosi della Roma è che si prepari la strada in queste settimane all'idea che poi Zaniolo vada venduto 40, 50, 60 milioni. In quel modo l'hai autorizzato, e quindi è stato un errore clamoroso dal mio punto di vista. Sì, credo però che serva molto di più per convincere eventualmente i tifosi della Roma ad accettare la cessione di quello che in questo momento rappresenta, anche dal punto di vista simbolico, l'idea di poter far ripartire quel progetto che poi non c'è, o comunque deve attendere il passo societario di cui parlavamo prima. Grazie a Giancarlo Dotto. Ciao, grazie. A Giancarlo Dotto. Ricordo anche, lo abbiamo letto oggi sul Corriere dello Sport, sul Messaggero e anche su altri quotidiani, che sullo sfondo della Roma, Carlo, resta la vicenda societaria con la nuova offerta formale presentata da Friedkin, 490 milioni di euro più 85 da mettere nel club come ricapitalizzazione, e capiremo nelle prossime settimane se Pallotta decide di accettare. Allora, noi dobbiamo fermarci perché c'è il GR delle 18. Intanto c'è in questo momento il raddoppio della Sampdoria con un autogol di Berezinski, credo, 41esimo minuto, 2-0 per il Parma. C'è stata un'azione sulla destra, traversone messo in mezzo, rasoterra forte, e il giocatore della Sampdoria, a due passi dalla linea di porta, ha deviato all'interno della propria porta. Dunque 2-0 per il Parma sulla Sampdoria. Il tiro cross è stato di Kulusevski, dubito che ci siano motivi per annullare questa rete. Dunque 2-0. Andiamo al GR delle 18, poi quando torniamo è il momento di farvi sentire Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, di cominciare a parlare di Juventus-Lazio di domani sera, e poi parliamo anche del Milan, di tutto quello che sta succedendo intorno a Pioli. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. È partita l'offerta pubblica di scambio di Intesa San Paolo sulle azioni UbiBanca. Il futuro oggi più che mai è di chi sa costruirlo insieme. Ecco perché crediamo in un'unione fondata su solidità patrimoniale, redditività e generazione di valore per azionisti, clienti, famiglie, imprese e dipendenti. Costruiamo insieme un grande futuro. Per maggiori informazioni visita il sito gruppo.intesasanpaolo.com o chiama il numero verde 800 595 471. Prima dell'adesione, leggere attentamente il documento di offerta disponibile sul sito internet gruppo.intesasanpaolo.com o presso l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni. Allora Marco, come va la palestra? Benissimo, ho trovato un prodotto made in Italy per sanificare tra un corso e l'altro. Wow, e cosa usi? Mi servirebbe in azienda. Ho installato SaniSafe, gestisco giorni, orari e intensità con l'app, e dopo 15 minuti si può già entrare in sala. Per eliminare virus e batteri in ogni ambiente, vai su sanificainsicurezza.it. Hotspot Wi-Fi, sistema di frenata assistita, blind spot monitoring. Di auto come Renegade e Compass potremmo dirti tutto, oppure soltanto che sono Jeep. A luglio Jeep arriva prima e ti dà il doppio degli incentivi. Su Renegade e Compass fino a 7.000 euro di vantaggi anche senza rottamazione, con zero anticipo e zero rate nel 2020. Scoprila anche sulle nuove Renegade e Compass 4x plug-in hybrid. TAN 4,99, TAEG 6,30. Offerta soggetta ad approvazione FCA Bank. Info e condizioni su jeepofficial.it. Jeep, there's only one. I miei rifiuti industriali? Io li metto su un camion e via. Un affarone. Però volevo sapere cosa fai tu, Contini. Ma sai, oggi trattare i rifiuti industriali senza rischi penali è diventata una bella sfida. E se non stai attento, zac! Ma li leggi i giornali? Impianti strani, incendi, manette. Io non voglio grane. La soluzione è la gestione Omnisist. Sì, ma cos'hanno in più? Semplice. Progetti concreti e una posizione indipendente. Non hanno impianti né camion e quindi mi consigliano liberamente il meglio. La sfida si vince con Omnisist. Omnisist. La responsabilità ha un nuovo valore. Omnisist.it. Convocati. Guarda, continui a ripetere della panchina lunga dell'Atalanta, ma prova a pensarci, io sono un tifoso del Genoa, vai indietro a vedere gli anni di Gasperini al Genoa, di nuovo c'erano 15-16 titolari, vai poi a vedere quando le squadre come Genoa e l'Atalanta vendono questi giocatori, guarda Gagliardini, Bertolacci, sono tutte creature di Gasperini. Quando mollano Gasperini sono giocatori normali, è così, da anni, Gasperini è un genio, non sono i giocatori, è Gasperini. Stiamo viaggiando a marcia a ritmo da scudetto, da tutto il girone di ritorno. Non era questo l'obiettivo per raggiungere adesso, doveva capitare qualcosa di troppo straordinario per noi e anche, se volete, per la Juventus. Quindi i presupposti non ci sono stati nel girone di andata, sul quale possiamo avere dei rammarichi, e qui mi fermo. Ogni tanto se facciamo due pareggi, semmai il rammarico può essere stato altri tipi di partite. E non dice queste. Qui mi fermo? Perché nel girone d'andata non è filato tutto liscio. Eccoci qui ragazzi, allora ci risiamo, 800240024, Carlo Genta, c'è anche Luigi Pardo, ciao Pier. Ciao Pier. C'è qualcuno? Pier? Sono qui. Ah, sono eccoti. Qui. Partenza un po' complicata in questa seconda ora. Allora ragazzi, sapete cosa mi ha molto colpito di queste parole di Giampiero Gasperini che abbiamo sentito? Mi ha molto colpito quando ha detto, a proposito dell'ipotesi Scudetto, non è quello che dovevamo inseguire adesso. Avesse avuto più punti alla ripresa, l'Atalanta poteva sprintare, ha ragione Gasperini, la Juventus aveva troppo vantaggio, doveva creare qualcosa di Ma dietro quella adesso, Carlo, quella adesso vuol dire un'altra cosa. È il lodo Balzaretti che io condivido pienamente, per chi avesse visto il post partita di Juve-Atalanta su DAZN, cioè onestamente oggi l'Atalanta è una squadra da scudetto, non c'è nessun motivo logico per poter pensare che l'Atalanta non debba essere iscritta l'anno prossimo nella sfida scudetto. Poi è ovvio che di mezzo c'è un mercato, ci sono società che hanno sicuramente più risorse dell'Atalanta. Ma secondo te hai in mente quella cosa lì, Gasperini? Cioè l'idea che il 12 settembre, quando riparte la Serie A, lui possa presentarsi veramente tra le favorite? Adesso la parola adesso non so interpretartela, magari l'adesso è riferito al fatto che la Champions League che arriva fra ormai 20 giorni a Lisbona sicuramente lo tiene è il pensiero più forte che ha in testa, però io credo che l'Atalanta adesso, al di là della interpretazione autentica delle parole di Gasperini, l'Atalanta sia una realtà assoluta di questo campionato. Quindi oggi c'è proprio l'ultimo anno e mezzo di questa squadra, è stato condotto a un ritmo che pochissime altre hanno avuto, forse soltanto la Juve ha avuto. Adesso se andiamo a contare i punti possiamo anche fare questo giochino, quindi insomma è impossibile non iscriverla nella sfida scudetto. È chiaro che il budget non è quello della Juve, non è quello dell'Inter, e quindi è possibile che le rivali più potenti economicamente si possano rafforzare, che altre possano entrare, però insomma l'Atalanta... Però io dico ragazzi che è anche chiaro che anche la prossima sarà una stagione anomala come lo è stata questa, sì, certo. Dopo la ripresa, perché si giocherà, non dico ogni tre giorni ma quasi, perché ricordatevi che rientrano le soste delle nazionali, tra l'altro con più partite, perché dentro i nove giorni le nazionali giocheranno tre volte, non due, ritorneranno le coppe europee. Quindi io non so cosa ci fosse dietro quell'adesso, ma devo dirti mi ha molto incuriosito. Così come mi ha incuriosito, vi faccio sentire questo botta e risposta a proposito di un giudizio di Domenech su quello che sarà contro il Paris Saint-Germain. Domenech, che è un po' l'Ulivieri, diciamo, francese, ha detto che non pensa che il Paris Saint-Germain possa soffrire più tanto l'Atalanta, vista la difesa dell'Atalanta. No, penso che abbia ragione, che abbia fatto le sue valutazioni. Non posso commentare le sue valutazioni, speriamo di smentirlo in campo, però va bene. Io dico che il Paris Saint-Germain, Carlo, non sottovaluterà l'Atalanta. Se hanno un televisore che funziona, spero, ma dubito che accada. Carlo? Lo so. Ma guarda, ma probabilmente tra le grandi, il Paris Saint-Germain è quello che meglio si adatta al gioco dell'Atalanta, che è vero che concede tanto, però è una squadra che ha tre marce in più delle altre nel campionato italiano, immagino, di un Paris Saint-Germain fermo da 5 mesi, quindi non voglio arrivare a dire che è 50-50 quella partita lì, però non credo che le percentuali siano così sbilanciate. Oggi Garcia ha detto che il Lione non ha ritmo, a proposito di quello che accadrà nelle prossime settimane. Questo è un elemento fondamentale quando valuteremo la prossima Champions, ma se volete allarghiamo il discorso anche ai tedeschi, che hanno ricominciato subito ma poi si sono fermati prima, quindi forse il ritmo partita non è ottimale. Ci sono mille variabili, è una stagione anomala e quindi sicuramente quello che è successo avrà un'incidenza sul livello di preparazione. Quanto a Domenech, a parte che ci ricorda cose bellissime Domenech, quindi... Sì, ma fatto ridere la definizione di Olivieri francese, Olivieri capo degli allenatori italiani, sì, per intenderci. Pensa se gli avessero detto il Ventura francese. Al di là delle varie curiosità, sai, della sua fissa per l'astrologia, insomma, di altre cose... è stato un buon allenatore, secondo me ha toppato sto giro, però in questo caso sì, cioè io credo che l'Atalanta sicuramente non abbia nella fase difensiva la sua forza maggiore, soprattutto nella capacità di gestione delle partite forse c'è ancora un piccolo limite, però ha tantissime altre qualità e sono d'accordo con te, però soltanto 90 minuti meglio... poi No, ma c'è poco da gestire i 90 minuti. Allora 800 24 00 24, Angelo Firenze, ciao. Vai. Ciao, la domanda è molto semplice. La domanda è: Sarri, a dire di tutti, è fuori, ma visti i final eight, quindi la possibilità che chiunque a questo punto con poche partite possa vincere la Champions, la Juve ha molte più possibilità nelle partite, secondo me, nelle sfide secche. Quindi Sarri vince la Champions, è sempre fuori, secondo voi rimane? Secondo me non è fuori neanche non vincendola, però... No, infatti, no, no. È tutto da vincere il campionato. Innanzitutto deve vincere il campionato, è quello che lo diceva Bonucci in un'intervista post partita, credo un paio di partite fa, qua ormai si gioca ogni giorno, credo dopo Juve-Atalanta. Ma insomma, comunque il concetto è semplicissimo, cioè la Juve sognava e sogna ancora di poter chiudere il campionato con un certo anticipo per poter avere poi una preparazione un po' più graduale alla Champions League, che fino a questo momento non sta avendo, non ha ancora chiuso la partita, deve vincere il campionato Sarri non ha ancora vinto nulla, è un po' di pressione addosso, io penso che ce l'abbia. No, anzi, fin qui ha perso, nel senso che ha perso Supercoppa, esatto, e Coppa Italia, quindi, che possono anche essere un contorno, ma sono comunque due sconfitte. Padrone del suo destino, è ancora assolutamente padrone del suo destino, e se vince il campionato e fa una buona Champions, che non vuol dire vincerla, perché poi soltanto un presidente o un dirigente sprovveduto guarda la Champions League semplicemente in termini di coppa alzata e coppa non alzata, però fa tutta la differenza del mondo. Cioè, diciamo che Pier, sarebbe inaccettabile un'uscita con Lione, sarebbe veramente difficile, diciamo, da accettare anche a livello societario, e poi vediamo, perché dopo c'è il Manchester City, quasi giochi il Manchester City o il Real Madrid, ma insomma comunque una di quelle e te la giochi alla pari e perdi ai rigori, faccio per dirti, hai poco da rimproverarti, certo, no? Ci sono mille altre turno per perdi in serie. Cioè, io capisco benissimo che il tifoso giustamente giudica il risultato, però tu devi vedere la prestazione, devi vedere il percorso che una squadra fa. Il problema è quello, in questo momento per Sarri, che però lo avete sentito, ha detto voglio restare alla Juventus, un contratto è diverso da quello che succedeva un anno fa col Chelsea, ma adesso da qui ripartiamo. Intanto siamo nell'intervallo al Tardini, 2-0 per il Parma sulla Sampdoria, ricordo i gol realizzati da Gervinho al 18esimo e poi l'autorete di Berezinski al 41esimo del primo tempo. Abbiamo il traffico, ci fermiamo e allora poi sentiamo Sarri ed entriamo nella vigilia di Juventus-Lazio di domani sera. Per come sta giocando finora è un peccato, perché è indietro, ma l'Atalanta sarebbe veramente lo scudetto strameritato. Grande, grande, grande Atalanta. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. La Lazio durante la stagione ha fatto una grandissima stagione, si è dimostrata una grande squadra, e anche se puoi attraversare un momento meno positivo nella partita singola importante, e puoi ritrovare le qualità della grande squadra. Quindi è una partita la cui difficoltà si aumenta da sola, è una partita difficile contro una squadra forte con cui noi abbiamo sempre fatto fatica. Più della Juventus, dell'Inter e dell'Atalanta, guardo in casa mia, mi sarebbe piaciuto giocare questa serie di partite nel migliore dei modi con tutti i giocatori a disposizione. Purtroppo non è possibile, quindi mi piacerebbe parlare di chi scende in campo, degli uomini che domani dovranno aiutarmi in una partita difficilissima, perché giochiamo contro la prima della classe, contro la Juventus, che è una grandissima squadra che vince da 8 anni in Italia continuamente. Sì, meglio parlare di chi scenderà in campo, perché a proposito di assenze, Inzaghi deve incassare anche le assenze di Luis Alberto e Gioni domani nella partita contro la Juventus, che avrebbe dovuto essere una sfida scudetto. Invece sfida scudetto non sarà, o meglio lo sarà soltanto ed eventualmente in caso di successo questa sera dell'Inter all'Olimpico contro la Roma, in proiezione dell'ipotesi di poter vedere un duello tra Juventus e Inter. Saluto Gigi De Canio, ciao Gigi. Bentrovati, buonasera, ciao. Allora, completo. Però secondo me posso. Secondo me invece è una sfida scudetto, perché la Lazio, è vero che 8 punti sono tanti, se la Lazio vince si rilancia quantomeno per potersela giocare fino in fondo. Poi c'è la Juve, però insomma secondo me la Lazio deve andare in campo ancora con quell'atteggiamento lì, consapevole che ha perso dei punti tanti nelle ultime partite, però insomma in qualche modo che è padrona del suo destino, che non è quella di vincere il campionato, perché non le basta fare 5 vittorie per vincere il campionato, però con un'impresa sicuramente rimetterebbe Pepe al campionato prima di tutto per se stessa. Quindi questo tipo di ambizione la Lazio domani secondo me ce la deve avere e ce l'avrà. Poi se basterà, non lo so, ci crede ancora, le ultime non ci creda più tantissimo. Non lo so, io non lo so, è chiaro che adesso tra l'altro la notizia di oggi di queste due assenze, soprattutto quella di Luis Alberto, pesa, perché stiamo parlando di uno di quei 3-4 giocatori che fanno differenza nella Lazio. È evidente che è cambiato tutto, perché siamo passati da uno scenario in cui Inzaghi aveva una partita a settimana con le altre che giocavano le coppe, a uno scenario in cui invece si gioca tutti ogni 3 giorni, la Lazio è una rosa meno profonda rispetto alle altre squadre, ha avuto 1000 problemi fisici, forse ha sbagliato anche qualcosa, sai che ci sono un po' di... Ci sono parecchie critiche, quindi è cambiato tutto, però secondo me domani è ancora una sfida scudetto. Allora, intanto ha segnato la Sampdoria, terzo minuto della ripresa, Chabot, colpo di testa, dunque 2-1 per il Parma. Ma fatemi chiedere a Gigi De Canio come si motiva una squadra come la Lazio, reduce dalle ultime 3 settimane e dall'idea di un sogno che è svanito sul più bello. Intanto permettetemi di manifestarvi la mia sorpresa nel rendimento della Lazio, in quanto Lotito era il principale fautore della ripresa del campionato, il che significa che probabilmente aveva la constatazione che la squadra fosse piuttosto pronta, e invece registriamo il risultato, o uno dei risultati peggiori di tutte le squadre. È un peccato, perché ha dilapidato un patrimonio di certezze che aveva accumulato nella prima parte del campionato. Però intanto ha un sogno da inseguire, che è quello comunque della Champions, che rimane un grande risultato. Non credo alla possibilità che possano riagguantare la Juve, però è chiaro che ci devono provare, perché è un obbligo morale. Ma quindi se tu entrassi nello spogliatoio domani prima della partita, oggi alla rifinitura, cosa gli racconti? Ragazzi, oggi diamo tutto, perché è una bella occasione per dimostrare la nostra forza, e che questo che abbiamo attraversato è stato un momento sfortunato, e che abbiamo tutte le carte in regola per ambire a... Anche se non è facile azzerare le ultime settimane con tutto il carico di delusioni, fatiche, questo, infortuni. Per questo la motivazione deve essere mirata alla singola partita, non a un obiettivo a lungo termine. Vi faccio sentire il Sarri, che abbiamo lungamente preannunciato a proposito del suo futuro oggi, ed è paradossale che si parli del futuro dell'allenatore della Juventus al primo anno di contratto, alla vigilia di quella che diciamo è sempre stata e in parte è ancora una partita scudetto. Certamente lo è per la Juventus, perché se domani vince cancella anche le residue speranze dell'Inter. Se dovesse invece incasinarsi e aver vinto l'Inter questa sera, dà fiato alle speranze di Conte. Sarri sul suo futuro. Io ho un contratto in essere, per quanto mi riguarda io voglio andare avanti con la Juve. A Chelsea la situazione era diversa, mi piaceva moltissimo la Premier League, è un campionato bellissimo, un'esperienza bellissima, però il desiderio di tornare in Italia fondamentalmente ce l'ho sempre avuto. Carlo, parole di circostanza? Ma insomma, bisogna essere in circostanza, magari neanche tanto, bisogna essere in due però a fare i conti per vedere se si può proseguire il rapporto. Io credo che tutta la letteratura che ora si sta facendo su un possibile cambio allenatore alla Juventus sia aria fritta, nel senso che risultati alla mano a fine stagione, ma ce l'ha detto, ti ricordi anche quel giorno, ce l'ha confermato Andrea Agnelli, contano i risultati, ci si siede lì con i risultati in mano e poi si valuta. Non credo che ci siano, possano essere valutazioni sul gioco, sulle modalità di raggiungimento di quei risultati. Ma in una stagione, tanto, in un'estate in cui di fatto non ci sarà separazione temporale tra questa e la prossima stagione, non c'è, non so, chiedo a Pierre, il rischio che magari invece l'allenatore sappia che le considerazioni andranno fatte anche su altre tematiche, su altri parametri di giudizio, e magari questo può essere il momento in cui qualche telefonata parte? Cioè, a me comunque colpisce sentire l'allenatore della Juventus dire io voglio restare qui. Sì, però è abbastanza normale che sia così, perché la stagione di Sarri ad oggi è una stagione, ripeto, ancora sospesa. Da sei e mezzo, mezzo. Beh, ad oggi secondo me è da sei, lo dico sinceramente. Cioè, c'erano due obiettivi che sono svaniti tutti e due. C'è un campionato che la Juve sta controllando, che molto probabilmente vincerà, non è mai banale vincere, questo è discutibile. Però insomma, dirti che abbiamo visto la Juve sicura in campionato degli ultimi 8 anni, no. Ecco, soprattutto la tendenza, cioè sarebbe bastato probabilmente una partita diversa dopo il 2-0 col Sassuolo per cambiare il giudizio, no? Perché sono tante settimane che aspettiamo la zampata finale della Juve, questa zampata non arriva mai. Poi ti ripeto, magari succede domani sera e quindi poi martedì facciamo la trasmissione, facciamo i complimenti alla Juve ed amen. Però ad oggi questa cosa non è arrivata, anzi, la Juve sta ballando per difesa in una maniera che io sinceramente avevo visto raramente in questi anni. Sì, l'ha detto anche lui oggi, sospeso. Io non ripeto, c'è continuità. Cioè, Sarri è ancora padrone del suo destino, emettere oggi un giudizio definitivo su di lui, positivo o negativo, sarebbe sbagliato, perché questa è una stagione strana. Oggi è il 19 luglio, però è come se fosse il 10 aprile o il 15 aprile, per cui ancora è padrone del suo destino, ancora può cambiarlo in meglio. Però dovessi dirti che gli exit poll delle ultime partite siano clamorosi, dimenticheremmo quello che stiamo vedendo. Questo, può vincere il campionato, dovrebbe vincere il campionato se non ci sono sfracelli, e poi a quel punto potrà lavorare per la Champions League e provare a cambiare la stagione. Magari finisce in un trionfo, io glielo auguro. Insomma, non è che, però oggi stiamo raccontando quello che c'è. Gigi, ma tu hai capito, si è capito, insomma, riesci a immaginarti quale sia il problema della Juventus? Oggi Sarri ha detto una frase secondo me indicativa: non capiamo quale sia la realtà, se quella che prende 0 gol in 5 partite o quella che poi ne incassa 9 in 3, che è inquietante, se vogliamo, per un allenatore che viene ricordato per il bel gioco, ma in realtà ha sempre costruito partendo da una solida organizzazione difensiva. Infatti io mi rifaccio al periodo pre-Covid. Il problema di Sarri è che è arrivato in una squadra, in una società che per tanti anni ha giocato in un modo, volendo da lui un gioco diverso, quindi l'attuazione di un gioco più simile alle sue idee, e non ha avuto il tempo per poter lavorare a questo progetto. Lui stesso nelle dichiarazioni poi ha accettato l'idea di esaltare, di adeguarsi alle caratteristiche dei singoli campioni piuttosto che continuare a lavorare e ad imporre il suo gioco. È chiaro che è venuta fuori una Juve a tratti bella, a tratti esaltante, a tratti un po' equivoca, come in questa situazione, in questa analisi che avete fatto voi. Ma è stata una resa o è stata una cosa, secondo te, intelligente adattarsi? Secondo me è un adeguamento di una persona intelligente. Beh, c'è anche chi è rimasto deluso, perché chi è allenatore, fra virgolette, giochista, utilizziamo questa etichetta, solitamente è anche estremamente rigido nell'applicazione del suo calcio. Ma non se l'è data lui questa etichetta. Lui casomai ha cavalcato questa situazione quando, venendo da molto lontano, oltretutto aveva fatto bene, il Napoli ha dato spettacolo, senza però ricordare che il Napoli ha dato spettacolo perché dietro c'erano anni di lavoro di altri allenatori, perché ci vuole sempre continuità in un progetto tattico, quello che appunto la Juve lui non ha potuto trovare. E per cui il fatto che una squadra come la Juve prenda 9 gol in 3 partite dopo averne preso 0 in 5 è anche frutto di questo equivoco che ci si porta, che la Juve si porta dietro dall'inizio dell'anno, ma è anche frutto di queste nuove situazioni che si stanno vivendo, perché giocare ogni 3 giorni insomma è destabilizzante un po' per certo. Tutti. Gigi, posso chiedere al volo una cosa? Hai la sensazione che la Juventus stia, come dite voi allenatori, caricando in prospettiva Champions, cioè nelle ultime settimane potrebbe aver lavorato con quell'idea? Ma io non credo, perché poi stanno, intanto devono vincere lo scudetto, perché è un obiettivo, visto che gli altri due le hanno falliti, e per vincerlo devono vincere la partita, devono schierare la migliore formazione, poiché si gioca ogni 3 giorni non ci si può allenare, altrimenti sarebbero fuori una caterva di infortuni muscolari, perché caricando in allenamento e poi successivamente la partita ogni 3 giorni e a pochi giorni di distanza si avrebbero dei danni muscolari notevoli. Se avesse vinto e se vincesse lo scudetto prima delle partite di coppe, probabilmente qualche giocatore potrebbe avere un programma differenziato e lavorare in prospettiva anche Champions, ma sarebbe solo per qualche calciatore. Anche se lo spazio è poco, perché la Juve torna in campo in Champions il 7-8 agosto, adesso non ricordo la data. Il 7. Per questo sarebbe stato utile, però, per carità, mica per gli avversari, dico, sarebbe stato utile chiuderla prima, proprio per avere a quel punto un margine in più di preparazione. Detto questo, ripeto, poi vediamo, io penso che anche le energie psicologiche siano molto importanti. Questa squadra deve prendersi il primo traguardo della stagione, poi magari quello gli darà anche più energia. Arrivare con una vittoria, anche con una vittoria sofferta in campionato, magari potrebbe dare energia mentale e nuova linfa, no? nuova positività in vista della partita del 7. Quindi, sì, arrivarci con una testa diversa è il discorso che facevamo prima per l'Inter di Conte a proposito dell'Europa League, del quarto, del terzo e del secondo posto in campionato. Ci dobbiamo fermare, saluto Gigi De Cagno, ciao Gigi, grazie, alla prossima. Grazie a voi, a presto, buona serata, salve. 13° minuto al Tardini, 2-1 per il Parma sulla Sampdoria che adesso sta attaccando a pieno organico per cercare di riaprire definitivamente una partita che la vedeva sotto all'intervallo per 2-0. Un minuto di pausa, poi riapriamo le convocazioni, c'è Varanatomi con Luca Marelli. La Juve merita tutte le analisi che volete, ma quali sono le 3 squadre più in forma del campionato attualmente? E poi mi dite quali sono le 3 squadre che la Juventus ha affrontato nelle ultime 3 partite. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. VAR Anatomy. Con Luca Marelli. Eccoci, appuntamento tradizionale con VAR Anatomy con Luca Marelli. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Allora, è stato un sabato senza grossi motivi di discussione, quello che abbiamo vissuto ieri finalmente, aggiungo io, perché non ci è mancato davvero nulla in queste settimane. Oggi in questo Parma-Sampdoria abbiamo visto il gol annullato con chiamata VAR da parte di Manganiello, ed era il gol di Caprari del momentaneo 2-0 del Parma. L'unica sorpresa, non so Luca, è che ci hanno messo tanto, perché poi in realtà il fuorigioco mi pareva abbastanza netto. Sì, effettivamente poteva metterci molto di meno, non c'era neanche bisogno di tracciare le linee, bastava semplicemente una rilevazione abbastanza semplice. Sì, è stata abbastanza complessa, in ogni caso evidentemente ci sarà stato qualche problema anche di natura tecnica. Parma-Sampdoria 2-1 quando siamo nel 18° minuto del secondo tempo. Stiamo parlando di Juventus-Lazio, Luca, domani e oggi sono uscite le designazioni. Orsato con Mazzoleni al VAR e poi credo la coppia più affidabile di assistenti che potesse scegliere Rizzoli, quindi mi sembra che Rizzoli l'abbia trattata con quella che è insomma una sfida scudetto, anche se poi la classifica oggi racconta qualcosa di diverso. Ma sì, queste partite non vengono designate tre giorni prima. Sono partite che vengono programmate per tempo, abbiamo visto anche il percorso di Ostato, è stato tenuto lontano dalle grandi sfide nelle ultime 4-5 giornate, perché Rizzoli aveva programmato per lui Juventus-Lazio, a prescindere dalla classifica, che comunque rimane abbastanza interessante. La partita di domani comunque la prende un po' presa con le pinze, perché può succedere un po' di tutto, visto soprattutto che la Lazio mi è sembrata abbastanza ripresa Udine, però vediamo domani. Sicuramente ha scelto una terna di garanzia, un VAR tra i migliori in circolazione, perciò diciamo che nell'ambiente si dice ha blindato la partita. Anche la designazione di Roma-Inter di Bello arbitro guida al VAR è stata fatta secondo questa logica, cioè fatta insomma in un momento in cui forse l'Inter era fuori dalla corsa scudetto? Su Roma-Inter ho i miei dubbi, perché dico la verità, mi ha molto sorpreso la designazione di Bello, soprattutto perché veniva da un lato Sassuolo con qualche polemica, anche se la realtà dice che l'errore in quel caso è stato da Aureliano al VAR, che ha richiamato Di Bello per un episodio molto molto discutibile. Io credo che su Di Bello si stia insistendo molto, perché è uno dei giovani più promettenti e perché comunque bisogna trovare arbitri per l'anno prossimo, perché ricordiamolo che Calvarese, Giacomelli e Rocchi, a meno di clamorose sorprese, saluteranno la compagnia, e bisognerà trovare arbitri affidabili per le partite che hanno coperto loro quest'anno. Non sarà facile per risolvere la cosa. Sì, non sarà facile. Io credo che andrebbe allargata la platea degli arbitri per la prossima stagione, che ripeto sarà anomala, perché non si giocherà ogni tre giorni come in questa seconda parte di questo campionato, ma non ci andremo poi tanto lontani. Noi abbiamo visto, Luca, in queste settimane che è difficile gestire tutto con 20-21 arbitri. Sì, però bisogna anche portare un po' di chiarezza all'interno dell'aria. Non è possibile che a due mesi praticamente dall'inizio della stagione nuova ancora non si sappia se la canna sarà unita o meno. La canna IB deve essere unita, lo stiamo vedendo soprattutto in questi anni, che la divisione è stato un fallimento tecnico. È giusto che venga ammesso il fallimento tecnico, perché non c'è nulla di male, si può sbagliare, nessuno è perfetto. Però a due mesi di distanza, con i campionati che stanno finendo, che non si sappia ancora se la canna IB saranno unite, è abbastanza preoccupante. Diciamo questo, c'è un indizio chiaro, perché il raduno della Serie A e della Serie B sono stati fissati assieme tra il 6 e il 12 settembre. È un indizio, ma niente di più. Quindi si potrebbe tornare ad avere la possibilità di scegliere su un parco più ampio di arbitri, garantendo eventualmente il passaggio tra A e B, con continuità anche all'interno della stessa stagione. Grazie Luca. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao, grazie Luca Marelli. Allora, intanto ha colpito Carlo Pier la traversa e il Parma, 20° del secondo tempo, calcio di punizione di Brugman, pallone sulla traversa ad Audero battuto, ancora 2-1 il parziale per il Parma sulla Sampdoria. Vi faccio sentire Pioli ieri sera a proposito dell'arrabbiatura di Ibrahimovic, però parliamo del Milan, perché secondo me ci sono un paio di temi parecchio interessanti. Pioli. Ha detto qualcosa, ma onestamente non ho capito, ma è normale, ma io devo comunque anche gestirlo, comunque giochiamo ogni tre giorni, ha avuto un infortunio, sta tornando nelle condizioni, secondo me sia questa sera sia l'ultima partita è stato un punto di riferimento molto importante per la squadra, e quindi però giocare così tanto, ho bisogno che stiano bene, che siano pronti tutti, devo gestire un po' le forze di tutti. Allora Carlo Pier, io trovo abbastanza sorprendente quello che ho letto oggi sul Corriere della Sera, lo firma un amico come Carlo Spasserini, che è uno dei più informati sulle vicende del Milan, e dunque gli diamo il peso che merita, e cioè che la proprietà, siccome non ha ancora chiuso con Ragnin, starebbe ragionando sull'idea di tenerli tutti e due, Pioli in panchina e Ragnin come direttore tecnico. Ed è sette mesi che parliamo di Ragnin che deve venire a fare tutto, questo trovo sorprendente io, non che Pioli non meriti la conferma. L'abbiamo già detto. Vediamo come. Cioè, no, Pier, l'abbiamo ripetuto molte volte. Cioè, se Pioli rimane a fare l'allenatore del Milan con Ragnik a fare il dirigente, e ognuno nel suo ambito di competenza, potrebbe essere una soluzione che magari fa felici tutti. Il discorso è che Pioli non rimarrà mai a fare il telefono senza fili di Ragnik plenipotenziario. Pier? Secondo me. Condivido al 100% e chiaramente tutto lo storytelling, uso volutamente un'espressione che andava qualche tempo fa, legata alla figura di Rangnick e quindi alla contrapposizione tra i due, non aiuta. l'aiuta, nel senso che comunque è chiaro che se dovesse arrivare Rangnick con questo tipo di ipotesi, in effetti è abbastanza avventurosa, abbastanza clamorosa, qualche dubbio sulla leadership di Pioli e sugli ambiti di competenza di Pioli ci sarebbe. Detto questo, poi nella vita può succedere di tutto, può essere pure che si incontrano, si parlano e sì, c'è la fulminazione, scopro di essere la coppia perfetta. Certo, è una soluzione abbastanza macchinosa. Ma io credo anche sbagliata, perché se c'è un pregio, magari l'unico in questo momento che si può cogliere di tutta la vicenda, cioè dell'idea del Milan di ripartire da zero, è che finalmente si toglie qualunque tipo di alibi, di progetto a metà. Per la prima volta la proprietà mette in campo un progetto tutto suo. Intanto pareggio della Sampdoria, 2-2, 69esimo minuto, il gol viene attribuito a Quagliarella, l'ha segnato lui. Di fatto c'è stata anche una deviazione di un difensore del Parma che ha ingannato Sepe e ha reso imparabile la conclusione di Quagliarella, comunque 2-2 tra Sampdoria e Parma. E poi aggiungo e vi chiedo un commento su questo: in realtà a correre nell'epoca post-Covid non è solo il Milan di Pioli, ma è il Milan anche di Maldini e in parte di Boban. Ieri c'erano in campo e sono stati tra i migliori 6 giocatori acquistati nelle ultime 2 sessioni di mercato. E insomma, è forse arrivato anche il momento di dire che Maldini e Boban hanno lavorato bene nell'ultimo mercato. Sì, io sono d'accordo, cioè, sta cambiando clamorosamente tutto, perché ma Maldini viene trattato come l'ultimo degli scemi dal punto di vista della sua operatività di mercato, senza offesa, perché è un po' la percezione. Sì, voglio dire, non c'è sempre una corrispondenza perfetta tra i risultati che si ottengono e come si viene trattati, questo lo dico in generale, e io penso che sta cambiando tutto molto rapidamente, questo va detto, nel senso che adesso noi ci stiamo fermando il Covid a metà marzo, dopo 26 giornate, il quadro del Milan è un quadro sconfortante. Adesso sta succedendo qualcosa di clamoroso, di repentino, di molto incoraggiante. Quello che tu dici è vero, cioè c'è tanta sostanza, non sono soltanto i risultati, a parte che i risultati hanno sempre il loro peso, ma è proprio un rifiorire di tutta una serie di giocatori che fino a qualche tempo fa sembravano giocatori non da Milan e che oggi sono diventati a pieno titolo giocatori da Milan e stanno prendendo coraggio, e probabilmente in questo momento la cosa più semplice da fare sarebbe non la rivoluzione ma qualche riforma, cioè aggiungere a questa squadra 2, 3, 4 giocatori di valore e forse avresti veramente qualcosa che pian piano può fiorire. Questo è indiscutibile, però oggettivamente, a parziale scusante delle titubanze del Milan in questo momento, va detto che sta succedendo una cosa clamorosa che cresce di partita in partita. Ieri è stato un altro tassello di questa crescita, però cioè, ragazzi, allora una delle ragioni di rottura e di scelta da parte della proprietà del Milan di cambiare tutto, perché non è questione di dire hai sbagliato un allenatore, hai preso un traghettatore, prendiamo un allenatore diverso, è l'idea di azzerare il progetto tecnico a partire dai nomi dei dirigenti per la terza volta in 3 anni. La realtà ci racconta che il lavoro di Boban, Maldini e Massara, e dei tre probabilmente non ne rimarrà nessuno nella prossima stagione del Milan, è un lavoro che ha portato giocatori a poco prezzo, perché è stata le ultime 2 campagne sono state fondamentalmente low cost, paradossalmente è stato sbagliato Leao, che è stato il giocatore pagato tanto, e che si stanno rivalutando tanto. È vero, ma certamente è così, il che è molto strano, ma c'è un abbaglio colossale in questa cosa. Lo so Giovanni, però la parola chiave è rapidità, velocità. Non vedi come ogni volta il Milan torni da capo? Non c'era nemmeno ragione per cambiare Gattuso l'anno scorso. Insomma, non, spesso si chiede tempo, il tempo non esiste, te lo conquisti con i risultati. Però se qualcuno dice va bene, con Rangnick facciamo un progetto quinquennale, a me viene da ridere, perché certamente questo porta una filosofia completamente nuova, completamente diversa, però deve guadagnarsi anche lui il tempo vincendo, perché se a Natale il Milan è nono in classifica, te lo regalo Rangnick. Boban Maldini e Massara hanno avuto un progetto di 5 mesi, non di 5 anni. Appunto. Davide Milano, Davide. Sì, salve. Pronto? Sì, vai. Sì, salve. Sentite, io volevo proporvi un interrogativo un po' socio-filosofico sullo sport in generale, ma sul campionato. Io sostengo sempre che quando il più forte non vince, non è mai il più debole che vinca, ma è il più forte che perda. Il nostro campionato, e questo è un discorso che lo faccio più non verso i tifosi, che li capisco, ma verso diciamo gli addetti al lavoro e tutto quanto, Il campionato italiano è così diviso, dove c'è una squadra talmente più forte che per non vincere gli altri quindi devono sperare che non giochi al massimo delle sue possibilità per far sì che ci sia interesse. Quindi io non sono d'accordo, Davide, cioè secondo me lo sport poi si fa in campo e in campo ci sono mille logiche. La Juventus è certamente la più forte di questo campionato, sì. Aggiungo io, se vince lo scudetto lo vince strameritatamente, anche se ha avuto dei passi a vuoto, perché poi lo scudetto inizia, il campionato inizia la giornata 1 e finisce la giornata 38. Ad esempio l'Atalanta, che storicamente le prime 4, 5, 6 giornate di campionato fa fatica a fare punti, non è che quello è precampionato, è un campionato e quindi la continuità fa parte ed è un valore. Però è vero quello che dice l'ascoltatore, tant'è vero che noi siamo oggi, giustamente, non solo noi, tutti a discutere Sarri, che pure ha un vantaggio significativo in classifica a 5 giornate dalla fine. E quel vantaggio lì ce l'avesse avuto l'Inter o il Milan o la Lazio o la Roma, saremmo in presa. Cioè il punto di partenza secondo me è fondamentale. Qui c'è una squadra che ha vinto gli ultimi 8 anni, che ha un fatturato superiore a tutte le altre. Dopodiché si discute Sarri, perché l'asticella alla Juve per Sarri è molto alta. Ci dobbiamo fermare, siamo in ritardo, c'è il traffico, poi parliamo di Genoa-Lecce di questa sera. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Un gol, ci devi fare un gol, per questa vita un gol, per arrivare a fine mese. Vogliamo andare a prenderci quello che ci meritiamo, perché il lavoro che stiamo facendo è tanto, la passione che ci stiamo mettendo è tanta. Secondo me abbiamo fatto già un'impresa, abbiamo dimostrato di poter arrivare alla salvezza, pur avendo poi conquistato prima della sosta gli stessi punti del Lecce. Ed è il momento clou, perché è qua che possiamo raggiungere quello che cerchiamo da tempo. Dei sandoriani non ne parlo, mi ha convinto il mio avvocato a farlo. Francesco Baccini, ciao, buon pomeriggio, buonasera. Buon pomeriggio, speriamo che sia anche una buona sera. Ecco, 19.30, Genoa-Lecce. Allora, io te la butto lì, abbiamo 5 minuti. Se il Genoa vince è salvo, se il Genoa pareggia o perde, e insomma si apre un finale di mese di luglio da incubo per i tifosi del Genoa. Ma l'incubo è già iniziato, ci siamo già dentro da un bel po'. Il risultato chiaramente sarà importantissimo, perché ormai è una lotta a due praticamente, quindi tra noi e Lecce. L'importante è non perdere, secondo me. Se vincessimo sarebbe ideale. Visto il Genoa di questi tempi, non so se accontentarmi anche di un pareggio, anche perché nei prossimi scontri abbiamo il derby, poi abbiamo l'Inter. No, ma il Genoa ha un calendario bruttissimo, al derby all'Inter, ha il Sassuolo e poi al Verona. Sì. Quindi tra l'altro ti informo che la Sampdoria ha appena segnato il gol del 3-2 e quindi ha completato la rimonta da 2-0 per il Parma a 3-2. Così sei più tranquillo. Bellissime. Bonazzoli, no, Bonazzoli ha segnato. Bonazzoli, perfetto. Noi invece segniamo solo su rigore ultimamente, anzi anche su quello, perché abbiamo anche sbagliato. Per fortuna che poi abbiamo vinto lo stesso, ma più che altro a me la cosa che mi preoccupa è vedo la mancanza proprio di voglia di vincere. Cioè noi entriamo in campo, siamo già seduti e secondo me manca proprio il trascinatore della squadra, cioè quello che è Pande. Cioè quando entra Pande si ha qualcuno che vuole giocare per vincere, e devo dire che i 3 punti dell'ultima partita che abbiamo fatto è grazie a Pande. Però Pande c'è anche un'età, giocano ogni 3 giorni, sì, non ce la può fare, certo, non si può immaginare che giochi sempre, no Carlo? Però esatto, io vedo tutta la squadra per 2 persone che sono veramente in campo, una è Perin e l'altra è Pande. In mezzo vedo gente che ti passa la palla indietro. E quindi questo Francesco, Genoa quest'anno deve salvare la buccia, la classica stagione sbagliata, nata male, continuata peggio. Sì, anche perché è stata una stagione, non dimentichiamo. Non è l'unica. Dimmi, Pier. Dire che Nicola in realtà aveva trovato, come dire, una quadra della squadra, un gioco di parole, perché prima della sosta forzata, il Genoa era tornato dietro una squadra, era risalito in classifica perché era ultimo. Avevamo raggiunto il Lecce, avevamo anche non so se superato a livello di punti, ma sullo slancio il Genoa stava giocando bene, ha vinto San Siro, abbiamo perso con l'Alzo in casa, ma sono usciti tutti gli applausi perché comunque la Lazio era informissima e abbiamo fatto una partita vera. Poi si è spenta la luce. Quando sono ritornati in campo sembrava che non avessero fatto neanche un allenamento. Cioè, io ho visto la prima col Parma, eravamo col Parma, correvano il doppio. Cioè, alla fine nel calcio moderno vince chi corre, non puoi pensare... Io non vedo mai uno che detta l'azione, un triangolo. Sì, c'è un'evidente mancanza di leadership dentro quella squadra, ma forse in assoluto dentro l'ambiente Genoa. Per esempio, io mi aspettavo che avesse questo carattere, no? da trascinare la squadra, invece non ce l'ha. Sono rimasto deluso proprio da quelli che mi aspettavo che fossero quelli che fanno la squadra, perché poi una squadra ci sono sempre due o tre elementi che sono i trascinatori. Io questa squadra non vedo, se vedo già, mi vedo molli. Sì, non vedi la spina dorsale. Io resto deluso dal fatto che tutti gli anni il Genoa si riduca a giocarsi la salvezza nelle ultime giornate. Club che ha in realtà delle potenzialità nettamente superiori. Ma anche perché negli non sogniamo anni, altro, ma insomma. Ma guarda, purtroppo io sono di quelli che... Io sono un gasperiniano convinto, quindi da quando è andato via Gasperini la squadra è crollata. Abbiamo cambiato 26 allenatori, ma con Gasperini vedevamo finanziato a giocare al calcio, poi come dire, i fatti ci dimostrano cosa sta facendo con l'Atalanta. Quindi con Gasperini arrivavamo nonni, decimi, ottavi, siamo andati due volte in UEFA, in una poi non abbiamo fatto. Sì, poi la china è totalmente cambiata. Il Genoa si trova questa sera a giocarsi la partita decisiva di questa stagione, 19:30 Genoa-Lecce, che racconteremo nel corso della serata insieme anche a Napoli-Udinese, Fiorentina-Torino, Brescia-Spale, poi dalle 21:45 a Roma-Inter. Allora, noi siamo arrivati in fondo, io ringrazio Francesco Baccini, ciao, grazie. Grazie a voi. Buona ciao partita. La Samp è sempre sul 3-2 nel frattempo, non è successo altro. Sì, ma potrebbe essere anche... così per informarti. Allora, ringrazio e saluto anche Carlo Genta. Ciao Carlo, domani. Ciao Giovanni, ciao domani. Pierluigi Pardo, idem, ciao. Appuntamento domani, ciao. Dopo il GR delle 14, 3-2 dunque della Sampdoria sul Parma, quando siamo negli ultimi 8 minuti e 30 secondi di questa partita. Io ringrazio anche Claudia Schiattone in redazione, Valeria Bernardi e Roberta Frisani che si sono alternate in regia. Ricordo che l'appuntamento con tutti i convocati weekend è per domenica prossima in diretta, rigorosamente a partire dalle 17. Ciao! Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti! Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.